problemi, figurati, no, ci sono problemi già. E allora? E metti giù, giù. Non mi sono riposato un attimo, ma questa sera. Sto finendo adesso di piazzare tutte le cose nuove in casa. Ah, ho capito. Aspetta che abbasso il ricevitore, che stavo ascoltando il mio. Ecco, avanti, no, se no veniva traslata, capito? Perché stavo ascoltando il ricevitore, noi c'è Vanino e Claudio, che stanno facendo questo. Ok, avanti già. Sì che ti sei affaticato anche stasera, vabbè, già per te stesso, o già, non ti preoccupare per quello. Adesso? Ma c'erano quelle prese che una funzionava, l'altra no, l'altra era difettosa, il campanello era difettoso, allora mi sono deciso, ho cambiato il campanello dell'entrata, poi tutte le prese della sala, le prese della cucina del doppio servizio, poi quando ne ho voglia faccio tutte le altre, intanto è una nuova sedia, questa qua si trova tranquillamente. Beh, ho capito, sì, no. E qui già sono tutte nuove, l'impianto, la casa è fatta 10 anni, dunque. E io tutte le prese, tutti i frutti della serie Luna, le prese, gli interruttori che ho io, no? Si chiamano frutti, si chiama. La serie Luna sono buoni, diciamo che sono buoni, dai. Io ho preso quello della Piticino, non so se le conosci. Piticino, quelle che si adeguano a casa mia, là. Con la placca un grigio smeraldo, là. Ho capito, sì, io conosco bene, la Piticino è una marca importante, non ci sono dubbi. Sì, anche la serie Luna, non li ho comprati alla Elcom, non è che li ho presi alla Bricom o alla Città Mercato, no? Da tutto un po' nel negozio di elettricità, come si vede. Anche da poco avevo comprato anche una lampadina che è di quelle a basso consumo, me l'ha fatta pagare 26 euro una lampadina, ed è una lampadina da 100, da, mi sembra 48 watt o 68, sai che non ricordo bene, 48 o 68, ne dà di potenza, illumina come una lampadina da 180 watt. Diciamo che dura bene, è molto molto molto bella la luce fredda e tutto. Non sei uscito? Ho detto se la filettatura è fina o grossa, perché io ne sto cercando una con la filettatura fina che abbia un po' di candele, però di latte, diciamo. E invece non è proprio, dice che con le filettature fine le fanno sino a un certo livello, però non è. Perché la devo mettere in cameretta, ho buscato un lampadario bello, mi piace, fa la luce suffusa blu per la cameretta, e poi ci vuole una lampadina che illumini di più, se no è troppo soffusa, capito? Ho capito già, sì. E non so, provo ad andare da Enco, lì a Pedalietta, che sicuramente, e se non c'è la riduzione, da piccola a grande, e poi ci avvicina la lampadina. Esistono anche le riduzioni, dunque non è un problema. E ti prendi la lampadina del vantaggio che ti fa comodo, insomma, ecco, capito? Grande a piccola, c'è la riduzione. Da grande a piccola e da piccola a grande anche, certo, da attacco Minion a attacco Edison E27, sì, quelle grandi si chiamano attacco E27, cioè attacco Edison. E buona sapersi, perché non sapevo che ci fosse il riduttore. Buona sapersi. Perché con l'attacco così non se ne trovano come ne voglio io. E siccome questo lampadario è tutto particolare, fatto a catene, insomma, è un lampadario antico, diciamo, che mi è stato regalato, ed era confezionato ancora tutto quanto nel cielo, ma non è mai stato usato praticamente, là. E l'ho messo in cameretta, l'ha voluto Manuela perché gli è piaciuto e l'ho messo in cameretta, e c'ha il globo che blu, fa la luce blu tutta la stanza, ma tu devi vedere che effetto che fa. Ho capito, sì, certo, ma mi sembra che con le riduzioni, se ricordo bene, le ho viste anche da Bricomen, se ricordo bene, non vorrei sbagliare. problema di averli visti anche da Bricome. Sì, che non è un problema. Vai a comprare la lozione e poi ti compri la lampadina dove ti piace, non è un problema. E ce l'ha di qualsiasi vantaggio, la Elco te le fa pagare, ripeto, lo pagate a roba di 26 euro. Il giorno c'era anche Giancarlo Tucatucca, c'era Giancarlo Pasolino, c'era il giorno che avevo incontrato lì, che anche lui stava comprando materiale elettrico, stava comprando per farsi un lavoro che, già lo sai, Giancarlo è uno pratico, no, di queste cose, già le faceva, anche perché credo che non stia facendo più il geometra, Giancarlo aveva fatto un corso della radio scuola Eletta, no? L'ha fatto, ma ne sapeva, e poi avrà sicuramente imparato anche dal fratello, lui è un fratello radiotecnico, penso che ce l'abbia ancora al laboratorio fratello, lì in via Fredoliani mi sembra che era, da quelle parti lì, se ricordo bene. E poi cosa aveva fatto? Aveva fatto anche un altro corso, non mi ricordo, oltre al fatto che è diplomato geometra, no? Infatti poi faceva geometra, ma penso che non lo stia facendo più geometra, penso che adesso stia facendo o la polizia da elettricista, una cosa del genere, capito? Ha pagato. Ma vabbè, allora l'altro fatto lo stavo confondendo, quello che c'era in via Oriani. Quello che c'è in via Oriani, sì, esatto. Fratello quello è. Poi, vabbè, c'è l'altro fratello che è la buona anima di temporale. Quello non lo so. Vabbè, uno conosco, uno che abita vicino a casa tua ancora, no? C'è quello, vabbè, quello lì è un po' fuori di testa. Abitavo. Ah, non c'è più lì, non abita più lì. Adesso sarà in cielo. Ah, morto era, non lo sapevo. Non lo sapevo, boh, almeno non me lo ricordo. Non lo ricordo perlomeno. Boh. Ah, vabbè, pace all'anima sua, cosa vuoi dire? E vabbè, dai. Una volta ho incontrato il padre, avevo incontrato a Sorso, l'avevo incontrato, sì, il maestro Pasolino, faceva l'insegnante il padre, mi ricordo, tanti anni fa. E una volta un suo nipote lì, nel piazzale dove abita mamma, che è un suo nipote, stesso cognome tutto, lui l'ha sgridato, non so per quale motivo, mi sembra che gli aveva dato lo schiaffo, una cosa del genere, ha preso quello là, ragazzi, dal nipote gli ha dato la testata in faccia. No, non lo sapevi, già felice che tu ci vedi da fuori di testa, era laureato, insegnava, si è impiccato a scuola. Ho capito, lo so che era laureato, sì, lo so, a differenza di Giancarlo, Gianfelice era laureato, già lo so quello, ma poveretto era fuori di testa, però, si vede che era depresso, che ne so, vabbè, comunque, la vita, sempre bisogna dire la vita, ti può riservare quello e l'altro, vabbè, è andata così, pazienza, ma la famiglia abiterà ancora lì dalle parti dove abiti tu, no? Sì, la moglie. Appunto, sì. Lo so. Ma Giancarlo si era messo anche in politica qualche anno fa, Si era candidato alle comunali, che poi non era stato eletto, ma per pochi voti non era stato eletto. Poi penso che abbia abbandonato anche la strada della politica, non lo so. Sì, era consigliere comunale, la circoscrizione della Peloccia. Sì, nella circoscrizione, sì, quello è vero, sì, è vero, quello già lo so. Va bene, la moglie ad ogni modo è insegnante, perlomeno è insegnante, se c'è ancora non lo so. Io ci sono stato a casa sua diverse volte, già lo so, anche perché in quegli anni lì ci frequentavamo anche, no? Tant'è vero, abbiamo fatto tante cose insieme, tante applicazioni elettroniche, che poi tra l'altro mi avevo fatto anche il progetto della casa, qua, mi avevo fatto lui, perciò si può immaginare, lo so, lo conosco molto bene, ecco. Quindi era un bravo giovane, tra l'altro. Sì, lui lavorava alle dipendenze di un ingegnere, lavorava, e dunque era dalle parti di Galumberto, lì c'era lo studio lì, e lui era dipendente di questo ingegnere, e dunque si faceva anche i lavoretti per conto proprio, capito? Quando riusciva da fare qualche progettino, se lo faceva e basta, poi magari sotto la direzione delle sì, ho capito. Bisogna arrangiarsi nella vita. Beh certo, tant'è vero i calcoli dei solai, delle cose qua, l'aveva fatto l'ingegnere, l'aveva fatto, dice, l'ingegnere mi sta facendo il calcolo del ferro, mi sta facendo, appena che me lo dà, lo presentiamo, dice, il progetto e così è stato, l'ho presentato, tutto a posto, tranquillo, nessun problema, capito? Sì che il calcolo me l'aveva fatto, perché lui forse non lo so, probabilmente non era molto pratico, io questo non lo so. So solo che il calcolo me l'ha fatto l'ingegnere, quello, il suo datore di lavoro, capito? Ci sono delle competenze che non sono di compito del giovane, ma sono del compito dell'ingegnere. E ognuno lì c'ha, lì sono lavori fini, ognuno ha i suoi compiti, non è che tu fai il compito di un altro, lì si rispettano proprio, a te ti tocca a questo, a me tocca a quell'altro. Sì, ma è così, infatti è così. Non so, perché anche mia figlia è sempre quella, prima diplomata geometra, era anche abilitata perché ha fatto l'esame di Stato, eccetera. Poi si è laureata e dunque con la laurea che ha, lei può fare qualsiasi progetto, non ce ne sono problemi. Penso un po' tutto, può stimare gli immobili, i terreni, può stimare, può fare progettazione di qualsiasi cosa, anche di aziende agricole, tutte queste cose, non ci sono problemi. Addirittura può fare anche la progettazione per il contatore dell'acqua, pensa un po', perché per allacciarci l'acqua non sai che ci vuole il progettino. Infatti io me l'avevo fatto lì quando avevo chiesto la fornitura dell'acqua qua in questa casa. Quando sono venuto ho fatto, devo chiamare il geometra per fare il progettino, perché se no la manovra lo mettono loro e te lo fanno pagare a parte, cioè, chiami il geometra, ma c'è così, ma te lo faccio io, perché sai, infatti è anche compito suo quello, e dunque non mi è costato niente, se no dovevo pagare roba di 150 euro alla manovra, perché lo mandavano loro il geometra per fare questo progettino, capito? Quanti intrusi, no? Tanto va a guadagnare. Vabbè. Io mi guardo, ho scoperto una cosa. Ci siamo cambiati da Enel a Enel, sì, per carità di Dio, ce l'abbiamo fatta. Stiamo spendendo un sacco di soldi di energia elettrica. Con tanti consumi, quanto in tasse. Ho confrontato delle bollette che c'avevo con lei, delle bollette che c'ho con questo qui, cazzo, mi stanno facendo pagare 170 euro di tasse e 75 euro di luce. Se la distribuzione è la migliore, e non si cambiate ad andare al subappaltatore, andando al subappaltatore si paga il triplo, perché mangiano, loro comprano grandi quantità di corrente, poi li vendono al pubblico, ma non costano niente. E infatti è così, e questo vale anche per il fatto del telefono, sempre bisogna stare con la società madre di tutto questo, e poi c'è anche da dire questo, se hai necessità di una riparazione, quando li chiami quelli vengono dopo 15 giorni, invece se hai un problema teleco o un problema Enel, tu telefoni al massimo, poi per esagerare, 48 ore e sei di nuovo a posto, mentre invece ho sentito persone, essendo alla Edison e altre società, che sono state più di una settimana al buio proprio per quel motivo lì, perché? Perché le riparazioni chi le fa sempre l'Enel, se che l'Enel dice chi se ne frega, la società esterna, quando siamo a comodo ci andiamo a riparare, perché gli impianti sono sempre dell'Enel o già, è così infatti. E lo devi pagare di tasca. Questo non te lo so dire, probabilmente anche quello, che ne so io, il fatto sta che è così. Avanti già qua. È sempre la stessa storia, non finisce mai. di pannelli. Gli ha pagato roba di 20.000 euro speso per fare questi lavori. Li hanno piazzati e ancora non sono allacciati, perché dice che l'allaccio è compito Enel, che ne so io, boh. Il fatto sta, questo qui ha speso 20.000 euro, ha speso per farsi l'impianto con i pannelli solari e ancora sono inattivi questi pannelli. Ma è una cosa, guardalo, non è possibile, è passato già oltre un anno tra l'altro, non è che è passato un giorno o due giorni, già un anno è passato, si che vedi bene, oh yeah, quante truffe che ci sono in giro, io le considero truffe queste cose qua. Avanti, lo chiudo. E allora? E poi cosa serve il pannello con tutto questo peso sotto al tetto? Non so se da che punto va la bene. Se ti si sgancia, non va la gacchi di ruia, cioè non vai là. No, no, meglio niente, meglio niente. Anche il gas, quello di città, io ho paura a lasciarlo, mia moglie lo vuole lasciare, io sono contrario, ho paura. Mi ricordo sempre di piacere Cesare Battisti quello che è successo. Prendo io così chiarisco un po' le situazioni. Allora, intanto dovete sapere una cosa, che i pannelli solari quando manca la corrente elettrica dalla rete non funzionano, cioè vale a dire che è come che non ci siano, perché esiste un contattore bidirezionale che interfaccia i pannelli con la rete elettrica, per cui vede vendita e acquisto dalla rete Enel. L'Enel la notte ti rivende la corrente il doppio esatto di quello che la pagano a te, quindi hai il doppio delle tasse, il doppio dell'IVA, e ogni volta che vanno all'installazione dei pannelli solari sappiate che noi in bolletta stiamo sempre a pagare l'ecologia, quindi la fregatura verso l'utente è 4 volte alta, è 4 volte tanto, perché la prima è perché ti tassano la corrente e che ti vendono il doppio, la seconda è perché loro guadagnano in quanto non hanno centrali elettriche a distanza, quindi avendole vicino hanno risparmiato nella centrale. Terzo, perché tu hai la gestione dell'impianto, qualsiasi danno lo paghi di tasca tua, quelli che dicono di essere in teleassistenza sono tutte frontole e bubole. Quattro, i pannelli si abbassano di rendimento dopo circa 2 o 3 anni di circa il 25% e a volte anche di più. 5. L'inverter va cambiato ogni 10 anni perché ogni 10 anni è fuori legge, anche se funzionante. 6. Che la prendi in culo sempre i clienti. Figurati un po' che la taglia fregatura, ragazzi, è inutile, bisogna dirlo a voce alta, la gente non deve stare con gli occhi chiusi, bisogna che si metta in testa che non regala niente a nessuno, il problema è quello, che si tira, ma è mai possibile che uno debba cambiare queste cose? Perché? Perché devi cambiare? Non riesco a capire. Perché? Per fare di più, per avere dei problemi in seguito, ma lascia perdere, ragazzi, sono utente Enel 45 anni, 40, 41 anni, 42 anni qua a casa, e 45 in falegnameria, figurati se io mi metto in testa di cambiare, ma nemmeno per idea, sono tutte quante stupidaggini che uno farebbe, a andare a cambiare contratto, cambiare nuovo allaccio, ti fanno pagare, ma che domani, non è possibile. Purtroppo è così, la gente però alle volte si lascia convincere e poi si rende conto, come quello di ma quello è toccato, a conto me ne sono che è maschio, già, così è mi. Ma non solo, ti partecipo un'altra cosa, per lo smaltimento, che è la numero 7, per lo smaltimento, poi sono cavoli amari, e questi pannelli, siccome la maggior parte sono tutti made in Cina, sono già tutti fragili nei bordi, quando si sgancia il bordo del pannello, no? Inizia a penetrare l'acqua all'interno e il pannello si distrugge e quindi ti prepari per lo smaltimento. Se fosse come dicono gli utenti che loro guadagnano, allora l'Enel a quest'ora sarebbe praticamente fallita, più o meno, a seconda di come parlano loro. 9. Ma qual è il pezzo di fesso che va a pensare che esistono aziende che regalano denaro, giusto come diceva Giulio, no? Che regalano denaro solo esclusivamente per la bella faccia di aver sentito l'energia verde. Veramente verde fanno diventare l'utente se appena appena apri gli occhi, li prendi giù. E infatti è proprio così. Gianni, doppio giù, non lasciarti convincere da nessuno per queste cose, tieniti sempre la cosa tradizionale, gli impianti tradizionali e le forniture tradizionali, perché sono sempre dei migliori. al 100%, riprendi. Giù, ma se uno può risparmiare lo fa, abbiamo approvato, abbiamo visto che non conviene, io oggi stesso gli ho mandato il fax in disdetta, non ne voglio più sapere. Comunque questi pannelli solari stanno crescendo come funghi, se tu vai da tutte le parti che vai ci sono intere pieni di questi pannelli solari e vanno a tutti un po' di ieri. No, non hai capito come funziona, ti spiego, no? Ti spiego. Te lo rispiego. Se fosse vero che la gente ha ragione, attento l'Enel se la farebbe lei i campi di pannelli solari, comprerebbe anche nel circondario di delle città. Invece tu vedi una cosa, no? Converrebbe, ma a grosse linee, chi ne mette 5-6 campi, chi ha il terreno. Poi è tutto da vedere, perché lì ci sono 100.000 punti di domanda, non tutto ciò che luccica. Perché poi, se vai a vedere, tutte le clausole che comprendono l'investimento, cioè GDEF, GSEF, SEF, PEC, SEC, IP, CP, CIOTU, PICASSO e tutto. Se vedi quelle clausole, ti metti le mani in testa molto prima di metterti i pannelli solari su. Ma a prescindere, non è questione che è fesso, lo fanno fesso il cliente, diverso. Ma benista, io sono felice e contento. Loro dicono che stanno vincendo, che hanno vinto. Bene, io gli dico una cosa, che l'Enel a quest'ora, ragionando come loro, sarebbe fallita. Beh, mi arriva una cliente che mi dice devo produrre, e gli ho detto ma che hai, galline in cortile? No, dice i pannelli, sto aspettando l'estate. Hai capito già? Vedi come la faggiano il cervello alla gente. Cazzo, mettiti i pannelli solari, diventi ricco, cazzo, bel testa di cazzo. Ripeti già. E non so se li hai visti quei campi andando sulla strada da Prestigino. Cosa c'è di fronte al fiume Santo di pannelli solari? Un'estensione diretta di tutto pannelli solari. Sì, ma non è di un utente privato, stai attento. Quella gente che la vende l'energia, no, non confondiamo adesso cacca e cioccolato, che sono due cose veramente diverse, anche come odore. Cioè, ti spiego, un conto è che un'azienda fa un attentato a un terreno e se lo impianta a pannelli solari o che se lo mette ai urici perché deve vendere a te, quello è un altro discorso. Un conto è che caricano sulle spalle a un utente, cioè al singolo utente, gli caricano sulle spalle in casa sua oltretutto e nel suo tetto preso a colpi di mola dove affondano pezzi di metallo, dove mettono un telaio, tutto il bilenco, dove mettono i pannelli solari, dove ti dicono lei è tecnologicamente inculato. No, ma infatti i pannelli manco ho pensato ci avevo, però quello di cambiare di società ho provato, da quello che mi avevano descritto sembrava che convenisse, poi ho chiesto a degli amici, cioè ma per me è conveniente, e cosa? E abbiamo provato, adesso abbiamo visto che non funziona, stasera stesso ho mandato mia moglie a fare il fax, e abbiamo firmato la disdetta, tutto quanto, e via. Sì, ma alla fine conviene stare con le distribuzioni, il problema è che cos'è? Quelli sono tutti quanti, non le diceva, bararino, lo sai cosa vuol dire? Cioè ti fanno piccoli tagli, non si può morire, un taglio qui, un taglio lì, un taglio là, e quindi ti scende sangue e muori, di sanguato. Questa è la stessa cosa, lo stesso discorso, sono un bagarinoso, tutta gente che vuole succhiare sangue a spalle del povero. Ma cosa vuoi che gliene freghi a una società come Enel Energia o Edison o ex Monte Edison, tra parentesi già sulla via di fallimento, perché da solo a quell'azienda gli ho fatto un casino che loro non ne hanno idea, anzi ce l'hanno l'idea. Adesso stanno telefonando alle case in cerca di prendere i clienti, brutti figli di Troia. Cioè l'Edison è mondezza, l'energia sono ladroni, l'Enel distribuzione è ladra, ma almeno è un buon ladro, è il ladro principale. Ecco, vai, fate spogliare dal mio, no? Per carità, non è possibile, caspita, non è possibile. C'è la fregatura dappertutto, caspita, guarda, oggi bisogna stare veramente attenti. Così ti telefono continuamente, ti telefono per farti cambiare idea, ti propongono tante cose, ti propongono. Qui il telefono sembra che siamo quelli della Telecom, ogni tanto uno squillo, cazzita, e un giorno ti telefona quello dei mobili, un giorno ti telefona quello dei telefoni, un giorno ti telefona quello della corrente elettrica. Basta, è una cosa, guarda, non si può stare più in pace. È una seccatura continua, cazzita. Qui ci stanno costringendo, cazzita, a staccare il telefono, guarda, e tenere solamente il cellulare. Purtroppo il telefono di base è una comunità, anche perché ho 40 anni qua e mi dispiacerebbe toglierlo, però tutto sommato, guarda, alle volte ti fanno anche innervosire, proprio nelle ore meno adatte poi ti telefono, quando stai pranzando, la sera quando sei a letto, se uno si è andato presto a letto, ti senti quello che sente che ti propone la vendita non so di che cosa, ma guarda, oggi non si può stare tranquilli più da nessuna parte. Oi. Meno male, quando prendo io il telefono già taglio corto, non sono interessato a niente, buco e chiudo. Mentre invece mia moglie non è capace di fare questo. Quando ascolta tutto il patatracchio, si ascolta, poi magari dice che non è interessata anche lì, però per dirti, ma quando chiudono queste telefonate, chiudi subito e basta, cosa stai lì a perdere tempo? Capito Gianni io per uno? Ecco. Registrato, un attimo. Anche io faccio come te, Giulio, dico, non mi interessa, se chiudo, nemmeno gli do il modo di rispondere. Avanti, prego. Caparogger, ben sentiti e ben ascoltati, Giulio, Giovanni e Gianni, da questa parte Antonio Grotte che vi super cordializza, riprendi Gianni. Antonio, ben sentito, va. Cordialità anche a te. Penso che fossi in ascolto, visto che tu sei, diciamo, abbonato alla Edison, rispondi a Gianni. Infatti non mi trovo d'accordo con quello che dice Gianni, nel senso che purtroppo i ladroni principali lo sono rimasti e continuano proprio perché la gente forse è un po' troppo diffidente a cambiare gestore, però io sono passato davvero da una bolletta da 180 euro a una bolletta esattamente della metà con la Edison e mi sto trovando decisamente molto meglio. Perché ancora non sono arrivati gli ultimi frutti dell'orto? I frutti dell'orto? Sì, lo vedrai. Loro seminano, poi raccolgono. Vabbè, per adesso ti ripeto, rispetto a quello che si è mangiato all'Enel, sono esattamente come consumi la metà. Poi vabbè, ho un sistema particolare di pannello fotovoltaico che mi sono autocostruito, che mi sta mettendo nella condizione di risparmiare ancora di più. Sì, continua, semplicemente sono omologato il pannello fotovoltaico, va bene. Così va bene, così almeno non rompono le scatole, non sanno quanto ce n'è e quanto non ce n'è, così è l'unica. È abusivo? No, quello è l'unica. Ma a prescindere adesso dal pannello solare, ma lo sai che il gestore principale è sempre nella distribuzione? Ma lo sai che io ho praticamente una persona che lavora dentro l'Enel, se ne so più di quanto tu ti immagini, ma lo sai che è inutile venire a dire a me che tu risparmi corrente quando che l'Edison mette la cisa comunale maggiorata, cosa che l'Enel non ha fatto mai in vita sua, e ti fa pagare tutti gli sconti mensili di colpo. Ma cosa serve che mi fanno lo sconto? A cosa serve? No, aspetta. Io nel momento in cui arriva la bolletta non sono in lazioni. Sicuramente non è omologato, ma il potere dell'Enel fino a prova contraria smette di esistere e di essere nel momento in cui arriva il contatore. Dal contatore in poi posso fare quello che voglio, posso anche avvolgere i fili e farne un bel nodo morto. Ma nel momento in cui ogni due mesi mi arriva una bolletta che a parità, perché io ho tenuto le bollette per 5 anni, le tengo, e ho fatto un grafico, allora ogni anno sono esattamente la metà dell'anno in cui, del bimestre in cui mi trovavo con l'Enel, quindi esattamente la metà. Poi tutto insieme non so cosa mi possano mettere, tutto per adesso sto pagando la metà, esatta. Ecco, allora, facciamo due conti. Improvvisamente la tua bolletta è calata perché si è messa la società Edison Grandi Somari, e grandi animali, ma somari contro il cliente, però, cioè che hanno tirato testate in faccia al cliente, e delinquenti allo stesso tempo, perché quando maggiorano una cisa comunale è praticamente vendetta, tu non te ne rendi conto, ma guarda che ti mandano un foglio separato. In questo foglio separato dicono chiaramente che c'è una legge che gli permette di maggiorare la CISA, cosa che nessuna azienda di distribuzione di energia ha mai fatto, l'hanno fatto loro. E loro dice che sono quelli che ti danno il verde, ti fanno risparmiare il 20%, il 10%, 15%, sono un sacco di balle. Questo te lo garantisco. Il fatto che poi tu stia risparmiando per effetto di quel trambicolo che ti sei fatto è un altro conto. Questo è un altro discorso, perché ognuno, scusa se lo chiamate trambicolo, crocca come vuole, ma è sempre un accrocco. È un accrocco che però ti fa risparmiare. Vedi, lì ti credo più di quanto tu ti immagini, a prescindere che l'Enel, quando gli butti corrente dentro, se sei interfacciato con un inverter, non lo so che cosa combini, se commuti, se non ho un'idea, però se sei interfacciato con un inverter ti dice grazie, arrivederci, quando non è registrato, lo sapevi? Aspetta un attimino. Tipo di, tu sai benissimo che per buttare corrente o per vendere corrente devi avere un contatore particolare. Io ho un, cioè il contatore deve essere aperto sia in uscita che in entrata. Il mio contatore non ha modifiche, quindi io ho costruito un impianto fotovoltaico che produce esattamente 500 watt, che è la media di consumi di casa mia, con un inverter che si chiama Grid TE, che ti mette nella condizione di buttare sulla rete casalinga e non oltre, ma proprio perché il contatore è chiuso, il tipo di corrente che tu stai producendo. Quindi fino a quella corrente che tu produci attinge dal pannello solare. Nel momento in cui non ce la fa, come è logico, nel momento in cui attacchi un elettrodomestico a resistenza, deve attingere dal contattore. Però questo ammortizzatore che gli ho costruito, chiamiamolo così, di quel wattaggio che non accumula né tantomeno vende, va benissimo per ammortizzare quella media di consumi durante la giornata, che poi è quello che è il consumo, il vero e proprio consumo, perché il consumo non è il consumo di picco che ti può creare un, come si dice, un asciugacapelli, un, uno scaldabagno, che poi non uso neanche perché c'ho anche il pannello termoidraulico, ma va a ammortizzare tutte quelle cose, appunto, che comunque hanno una media di 300-400 watt. E mi sono trovato, ma non bene, di più. Comunque io credo che l'Enel, cioè l'Edison, a conti fatti, sia comunque inferiore, benché utilizzi le reti dell'Enel, al pari della, come si dice, delle altre reti telefoniche che utilizzavano inizialmente quelle che erano le reti della Telecom, però si potevano permettere, guarda caso, di farti un costo inferiore. Allora, io ho sempre pagato di più le reti telefoniche, evidentemente quando arriva la sassa delle telefonate cambiano tariffa. Il problema è questo, che la distribuzione è sempre una, va bene, il subappaltatore è sempre uno, il succhia sangue. Loro un po' di sconto, l'ho detto poco fa, lo fanno proprio perché riescono a comprare grosse quantità di energia e giostano, però poi te la fanno pagare da un'altra parte. Stai tranquillo che la paghi, non ti mettere problemi, che quando arriva il momento giusto ti sparano la CISA comunale maggiorata e tu sei a posto. E loro se ne escono con la faccia pulita. E 150 euro circa in una bolletta media, di una famiglia media, a fine anno. Perché questi 150 euro li devo pagare? Punto di domanda, ecco. È una CISA maggiorata, allora non mi stanno leggendo, hanno approfittato. Durante l'anno ti fanno gli sconti, poi quando arriva il momento sono come una morte, passano e te ne tagliano la testa. Ecco, poi del resto per quanto riguarda il tuo impianto non ha niente a che vedere col discorso dell'azienda, giusto come hai detto, ecco, l'hai confermato tu stesso, che con l'azienda di distribuzione di energia noi stiamo parlando di una cosa solo, che se fosse vero tutto quello che dicono, tutto quello che dice la gente, l'Enel sarebbe fallita, tranquillo. Sì, è vero anche che molti, e questo qua ti parlo delle persone anziane, non sono nella condizione di potersi staccare dall'Enel per non avere problemi, capito? Perché comunque giudicano ancora queste grandi aziende statali, che poi non lo sono più, dei caposaldi, qualcosa che ti dà sicurezza, e invece non è così. Però ti dico, io sono dell'idea che ci hanno sempre fregato e continuano a fregarci, soprattutto queste qua. E soprattutto, che cosa che mi lega all'Edison? Niente. Quindi nel momento in cui vedo che mi mangiano la bolletta, magari ne posso pagare uno, dopodiché per me hanno chiuso. Fatto sta che io sono 3 anni, 4 anni anzi con loro, e sto risparmiando una media di 600 euro all'anno. Vedi, questo è poco. Sì, già ti credo, già, dillo a me. Di te ne possono venire, no? Non perché tu sei affesso, eh. Ma ne possono venire un battaglione, tutti messi assieme, che dicono a me, che risparmi con la Edison, io ti dico c'hai ragione, però con me l'Edison ha finito, stai tranquillo, e ci ho risparmiato già, e come ci ho risparmiato? Mi sono risparmiato un avvocato, ci ha mancato poco, però gli ho distrutto sicuramente il terreno, perché io sono un coglione, lo sai cosa vuol dire, cioè non sono nessuno, però in faccia a quel coglione devono venire, te lo dico io, l'Edison è mondezza, lo sai cosa vuol dire mondezza? Tu stai risparmiando perché quell'impianto è tuo. Fatti invece una cosa, fatti un nuovo vallaccio Enel e prova a fare le due differenze che vediamo che cosa succede, senza che tu consumi niente della rete. Ripartiamo da zero. L'Edison non fa proprio nulla per te e tantomeno ne fa per me, l'Edison fa per loro. Adesso stanno telefonando da una casa all'altra che hanno preso tutti i clienti, mi spieghi il perché? Quindi dell'Edison? Ma non lo so, Giovanni, io so solamente che c'è questo risparmio, da voi, come si vuol dire, me ne frego, nel senso che mondetta o no, l'importante è che quando schiaccio il pulsante si accenda la lampadina, con la crocchio o senza, io porto la mia esperienza al pari di come la stai portando tu. Poi ti ringrazio di non avermi giudicato un fesso e ti diamo avanti, cosa vuoi dire? No, ma assolutamente, ognuno ha i suoi punti di vista, è come tale alle sue convinzioni, quindi non posso dire quello è un fesso. Evidentemente hai fatto le tue esperienze, sono d'accordissimo con te. Il problema non è dire, cioè, che tu non hai fatto quelle esperienze, è giusto quello che stai dicendo, ma verissimo, sono d'accordo con te. Però attenzione, attenzione, non si può venire a me a dirmi che l'Edison è una brava azienda, e come fa uno? Forse ho qualche esperienza in più della tua. E io in base a come hai detto tu appunto metto in campo le mie esperienze. Però la differenza lo sai che cos'è? Che se il tuo è un caso, ce ne sono 100.000 di casi, tutti anomali con l'Edison. Ecco questa telefonata da una casa all'altra, ha preso tutti i clienti. Ma lo sai quanti clienti? Lascia perdere. Cos'è quello che ti dico? Ognuno ti dà la cosa su un mulino. Questa dovrebbe essere una frase che lascia lunga. Già, riprendi. Aspetta un attimino, no, ti volevo dire, sicuramente io sono l'eccezione che conferma la regola che magari la Edison non è una brava agenzia ditta, al pari di come a Gianni Doppio Rum tutti ne parlano male e io sono l'unico che ne parla bene, sono l'eccezione che conferma la regola che sto sbagliando, cioè che Gianni non è una brava persona, Gianni Doppio Rum intendo. Gianni? Gianni è pazzo, aspetta che vediamo, ha fatto 7 contratti in 22 ore, mi aspetta già. Dovete stuzzicare? Riprendi, spiegali cosa hai combinato. No. Ah, ho provato a mettervi come nessi, ho visto che non andava, stasera stesso ho mandato il fax di disdetta, come la punta del tantone, se una cosa non li va, prende e cambia, però ho voluto provare perché ho sentito che era conveniente, poi magari per la gente è conveniente, per me no, perché mi sono accorto che ti metteva più di tasse che di quello che consumavo. Sto dicendo già, scusate, lo prendo io, ti sto dicendo che ti fanno credere fesso loro, no? Loro, dico ma sì, ma dai, passa con noi, c'è il risparmio, poi improvvisamente la mazzata, va bene, riprendi Antonio, dai. Cappa di Roggero, e vabbè, facciamo riprendere Giulio che secondo me è lui che ha più esperienza di tutti per una questione di età anagrafica, avanti Giulio. Non posso competere con Giovanni e tantomeno con te che tu ce l'hai sulla testa i pannelli solari eccetera eccetera, per il semplice motivo che io non li ho, non mi sono mai non ho mai pensato di poter fare una cosa del genere. Io posso solamente dire a Gianni Doppio Rum, e questo non è che ne sono certamente convinto, però io ho una sensazione che adesso Gianni, quando tu ritorni all'Enel, ti fanno parlare di nuovo il riallaccio, perché tu praticamente non sei più utente Enel, bensì sei utente Edison. Di conseguenza, questo passaggio adesso, cosa succede? In questo passaggio sicuramente ti faranno pagare un nuovo allaccio. Non so se ci sarà un attimo di campo, una cifra, diciamo così, importante come quando si fa la domanda dall'inizio, o perlomeno una mola o qualcosa del genere, non lo so. Questo adesso non te lo so dire Gianni, ma suppongo che Gianni di Giaguaro ne sappia un qualcosina in più di questo particolare. Tu cosa dici, Giovanni? Sì, io, no, non è così. Non è che fanno pagare all'ACI, non fanno pagare niente. Il passaggio è praticamente univoco al precedente. La maggior parte dei contatti sono vocali, vengono fatti appunto così per telefono, eccetera. Poi puoi decidere quando vuoi, anche perché ci sono varie leggi che lo permettono. Questo è l'unico punto di forza. Ma uno dovrebbe stare sempre lì a cambiare tipo di fornitore, ma dai, ma un pusher ce ne sono in piena, un cavallo anche. No, non c'è ombra di dubbio. Oh, amici di Bocchende, ma dimmi tu, ma guarda tu la gente cosa fa per risparmiare, cambia 100.000 aziende. Vabbè, là, tutto è provare. Che goduria, riprendi già. Ha detto che facciamo un attimino di piano. E comunque Giulio, tu mi hai detto che ho i pannelli solari sopra la testa. Ma guarda che ce li hai anche tu i pannelli termoidraulici sulla testa, No, ma perché ce li ho io? Qui no, non ce li ho io i pannelli. Il mio tetto è liscio, pulito, sgombro da qualsiasi cosa. No, adesso ti spiego perché. Tu l'acqua come la bevi, scusa? L'acqua come la bevo? Così hai detto? E l'acqua non la bevi? Non bevi un bicchiere? Quando bevi un bicchiere d'acqua non è fredda? Beh certo, è ovvio. Dunque cosa mi vorresti dire? E quando vai in bagno poi come la fai? Calda. Ah, lo vedi che ce l'hai pure tu il pannello? In quel senso lì sì, certo, ma io intendevo come impianto di pannelli solari e già vi hai capito benissimo. Poi la battuta ci sta, indubbiamente, questo non si discute per carità, anzi, diciamo che ci rallegriamo anche con certe battute. Però a me l'Enne non mi frega, e tantomeno la Teleco, guarda, questo te lo posso garantire. Perché voi cosa vuoi che me ne frega, ma se poi a fine anno magari ho pagato, ammesso che pago di più anche con l'Enne, che ho pagato un pochino di più, non me ne frega niente, ormai sono 40 anni e oltre che sono utente Enel, figurati se io a questo punto cambio idea, ma nemmeno per idea. E non è perché, come hai detto tu, gli anziani non sono nella condizione di cambiare, no, non è questione degli anziani. Io ho sentito anche altre persone che sono tornate all'Enel proprio per questo motivo che ha detto Gianni, che paga di più. E questo vale anche per il fatto del gas, la stessa cosa. Prima hanno iniziato con bollette leggere e poi sono diventate altissime, che a un certo punto conviene non averlo il gas in elettricità a casa. Questo per quanto mi dicono certi amici, dunque poi non lo so, io non ce l'ho e non lo metterò mai qua, perché sono come Gianni, ho paura del gas. Tant'è vero, qui ne ha pagato le conseguenze la famiglia l'altro giorno quando c'è stato quel lampo, quel fulmine, che gli si è incendiata addirittura la tubazione gas, è dovuto intervenire i pompieri e anche la Medea per mettere a posto, se che vedi bene a tu, sono problemi molto ma molto rischiosi. A parte che io ho parlato di anziani, quindi non vedo cosa c'entri tu, però quello che ti dicevo, vedi, tu che abiti dove abiti, sarebbe un grosso risparmio quello del pannello termoidraulico, quello che ho messo lo stesso anch'io, è una cosa che ti fa risparmiare davvero molto, ma molto. Ma so che invece quello in certi giorni non funziona bene, cioè uno non riesce a farsi una doccia proprio perché magari le giornate non sono le giornate di sole e tutte queste belle cose qua. Perché ho sentito gente che si è lamentata anche a riguardo di quello. Diciamo che aiuta, questo sì è vero, però che poi serva proprio in estate sì, in estate non c'è bisogno nemmeno che si accada l'acqua, perlomeno io me la faccio quasi sempre fredda la doccia, di conseguenza non ho nemmeno quel problema. Ma tante persone che ce l'hanno anche qui in zona, quel tipo di pannello lì, dice ti riscalda l'acqua, non è vero, perché ci sono certi giorni che te la intiepidisce e basta, non te la riscalda l'acqua, che è diverso, capito? Un attimo, sono rientrato, scusate, ma sono dovuto scendere ad aiutare mia moglie a prendere la spesa. Assolutamente, no, ma io già. Il problema è questo, Giulio, che una cosa è che l'acqua ti entri all'interno del boiler, perché anche il pannello termoidraulico c'ha il boiler poi, cioè lo scaldabagno. però una cosa è che l'acqua ti entri dentro lo scaldabagno che è a 20, a 10 gradi, che è quella, la temperatura di rete, una cosa è che ti entri magari anche tiepidina a 40 gradi, capito? Lì ci mette di meno a mandarla in ebollizione o comunque a farla arrivare a una temperatura per farti fare una doccia o qualcosa di piacevole. E comunque ho capito che non siete avvezzi alla tecnologia, dai. Riprendi Gianni Doppio Room, che tu ne capisci un bel. E io non ne capisco un bel, sto facendo parlare a voi, infatti. Se non fare modesto. Stavo prendendo un sorso di vino, ma non affogo. Ho visto quel video che hai messo su internet, carino, eh. Dove era? Caffa. Ma non li dà... non li rende giustizia. Vabbè, nel senso che non è di buona qualità il video, nel senso che l'hai fatto col telefonino. E allora? Aspetta un attimo. No, ma anche la voce, non si sente come si deve sentire. Già, ci siamo sovrammodulati, riprendi già un attimino, che sto facendo un attimino di vino, che sto guardando le cose. Ho detto, nemmeno l'audio si sente bene. Ma invece su YouTube è già. No, su Facebook. Su Facebook, ho capito. Vabbè. Già va bene, già, non è un problema. Sono cose che fanno piacere. Se abbiamo i dotti, diciamo così, naturali, ottime, farla continuare, così. No, sai perché ti dico questo? Perché di solito i giovani, cosa succede? Ma intraprendono un'attività o un qualcosa di importante e poi invece si stancano e cambiano idea. Allora in quel caso sono i genitori che dovrebbero insistere per cercare di farla continuare. Se tu ritieni che la ragazza vada bene, farla continuare, non si sa mai, potrebbe anche un giorno diventare anche famosa, chi lo sa? No, ma non è il caso di Emanuela, perché già 3 anni, 4 anni che va lì a scuola di canto, quindi le piace proprio, quindi non è il caso suo. E poi è una ragazza che sa quello che vuole, non ha bisogno di pungoli, roba del genere, lei sa quello che vuole, continua ad andare, quando gli piace una cosa la porta a termine e cerca di approfondirla. Oh, so che uno... diciamo che è un vicolo molto ma molto difficile da percorrere, non ci sono dubbi, perché lo sappiamo, c'è anche un'amica qua di mia figlia, addirittura è laureata in canto, ti puoi immaginare, ed è a Roma, ha fatto anche una trasmissione alla televisione, è diventata seconda, non mi ricordo che cosa era, che trasmissione, un concorso di voci nuove, elencami quelle trasmissioni che fanno i dilettanti per poi diventare veri cantanti, non mi ricordo come si chiama quella trasmissione lì, e lei aveva preso il secondo premio, il secondo posto, e lei è sempre a Roma lì, sta cercando di lanciarsi, ma è molto ma molto pesante, ci sta facendo la fame qua. Sì, già ne fa, dei concerti già ne fa, però non c'è il tanto, capito? Perché ancora non è famosa, tutto lì. Fatto. Ah, beh, comunque lei lo fa perché è parato per Ubi, non è che gli interessa sfondare cose. C'è anche da studiare adesso, non è che... Ma le piace ed è anche abbastanza brava. Ho capito, adesso mi è venuto in mente quando aveva fatto la tournée mio cognato con il suo gruppo, con Gianni Morandi, eccetera. Allora, a quei tempi, il Sole Nero, che aveva vinto una manifestazione qui in Sardegna e sono andati poi in continente, avevano fatto una lunghissima tournée per tutta l'Italia e anche in Europa se ne sono andati. E mi ricordo mio cognato, che lui era il bassista del gruppo, che poi è diventato, da Solenese, è diventato il Cuore degli Angeli, quel nome lì gliel'aveva cambiato Mogol, se ricordo bene, perché secondo me loro il Sole Nero non era un nome abbastanza attraente, capito? Allora gli hanno messo il Coro degli Angeli, i famosi di coso, come si chiama, i Tazenda in poche parole, che poi sono diventati Tazenda, eccetera. Ed era un bel gruppo veramente, non c'era che dire. E lui cosa faceva? Lui e gli altri dormivano nel sacco a pelo e Gianni Morandi si incassava i soldi praticamente, capito? E loro erano solo pieni di debiti perché avevano comprato tutti gli strumenti, avevano comprato, che poi con gli strumenti praticamente li ha pagati mia cognata, li ha pagati. Perché il promotore del gruppo in un certo senso era mio cognato, e allora c'era un sacco di soldi da pagare gli strumenti. A quel punto lì, siccome loro non ne toglievano le spese, li ha pagati mia cognata, e la cosa è andata avanti così, capito già? E io già sapessi quanto è difficile quel vicolo lì da percorrere. Avanti Gianni Giaguaro. Oh Giù, vengo a casa tua e ti faccio diventare tecnologico. Ti metto un pannello sulla zucca. Non credo, guarda, non credo proprio, guarda. Io la corrente elettrica la temo. So come si usa, come si tratta e come si bisogna domesticarla, però la temo. Niente in testa. Già lo credo. Aspetta, passiamo a Gianni. Oh già, tu non sei personaggio tecnologico. Ti faccio andare io in giro con un pannello solare. Oh no, io preferisco andare in giro con il pannello solare, pesa e non mi va di portarlo a te. Ma non li vuole solo questi pannelli, l'hanno scoperto che ti attramega. Uno come me, un uomo perso, mi viene da piangere. Mamma mia, non ho il pannello solare. Mi graffio, lo riprende giù. E come hai ripreso? Avanti, Giù. Scusate, mi sono allontanato, mi sono perso. Sentivo Gianni che si disperava, se ne vuoi uno te lo regalo io. No, ma guarda, visto e considerato che io praticamente invoglio l'utenza, no? Perché non so se lo sai, ma io realizzo impianti elettrici a tutto andare in civile abitazione, quindi aggiungo anche, molte volte regalo anche per la predisposizione per i pannelli solari. Cioè, pensa tu se io sono contro le persone, io sono contento, però attenzione, ognuno fa le sue scelte. È vero che i pannelli solari vanno bene, ma non a me, vanno bene a chi vanno bene, non a me. A me mi vanno bene quando loro mi mettono in chiaro tutte quelle porcate, non parlo del tuo caso che è privato, praticamente è un impianto tuo, tutte quelle porcate che scrivono e che dicono e che poi mettono addosso all'utenza cercando di fottirli con le leggi, perché è una mano fottuta. Non so se ti sarai informato, avrei visto le voci che ci sono avanti a te. Sì, assolutamente, ma infatti un grande errore, un grandissimo errore, quando alla fine vai a giostrare con queste compagnie, è quello di dargli il read della tua banca o il read della tua carta di credito, perché è vero che, come dice Gianni, da un momento all'altro li puoi mollare, li puoi smentire, puoi rescindere il contratto, però se gli dai il read sei pur certo che sei già fregato. Non ti ho detto che quello è detto? Proprio chiaro, scusa. La parola che hai detto anche alla modulazione. Stavo dicendo che basta che dire che la cosa peggiore che si possa fare è dargli il read della tua banca, nel senso metterli nella condizione di poterti mettere le mani sul conto impunemente, capito? Perché è la volta che ti prendono i soldi anche quando tu rescindi il contratto, per un paio di mesi, se non stai attento, te ne pinigano lo stesso i soldi. Ma non è solo una questione di privacy o di cose personali. Lì diventa una guerra di interessi e chi ci va di sotto è sempre l'utenza. Ma pensaci appena, rifletti, adesso lascia stare, ti ho detto tutto quello che si può fare, perché tutto si può fare. Tu prendi una società che sta in piedi da una vita, che è praticamente a tutti gli effetti padrona del sistema di fornitura di energia in tutte le sue parti. Un'azienda che ha sempre sprecato, sparperato, dilaniato, troncato, ritritato, tritato e straditritato l'utente, facendo, disfacendo anche linee puzzolenti, ultimamente infatti ha avuto uno scontro, ho spezzato le corna dei progettisti Siena, perché io gli spezzo le corna, io vado con la massa e faccio il contatore, no, se non lo metto dove dico io sono così, sono un vandalo, no? Arrivo di notte alle 4 del mattino, prendo la massa, anche le butto giù il contatore, sì che non metto il palo dove dico io, perché lei nella fa poi da spaccare un pacco di sigarette. Questi lavori qui hanno anche fatto. E adesso ti fanno il minimo tecnico, cioè adesso l'Enel prende e ti mette giusto, giusto quello che ci vuole. E a volte ti fanno penare, cazzo, perché il palo lo mettono, ma in culo al diavolo, cioè fanno cose strane, ma stai scherzando che l'Enel o la Edison o la Telecom ci vuole bene. Ma dai Anto, sinceramente, cosa pensi? Che facciano i nostri interessi? Ma non li hanno mai fatti. Come non li fa il tuo socio al 33%, il tuo socio fallimentare. E sarebbe che è questo? Lo Stato. Tu ricordati che ognuno di noi ha un socio fallimentare che ne fa di tutti i colori, con i tuoi soldi guadagnati col sudore della tua fronte, e che ha il 33% di quello che tu guadagni sempre, ed è lo Stato. Sì, perfetto, però non facciamoci almeno prendere da fessi. Tu devi capire una cosa, no? Che l'italiano, oltre che essere cliente dei politici, perché è sempre stato così, poi è una di quelle zucche dure che crede più ai Maya, no? Che a quello che è la realtà. E così sono le reti telefoniche e le reti di distribuzione di energia. Sono come i Maya, prevedono il futuro, vedono la fine del mondo e ti dicono: stai attento, con quell'azienda la fine del mondo, io sono la luce. Capite come ragionano? E ciò che tromba il cliente è proprio quello. Queste puttanate che lavano la testa alla gente, questo è il problema, capisci? Questo è il problema. Guarda, hanno fatto cose che tu non hai idea, va bene? È un po' come quando hanno iniziato a, come hai detto tu, no? A distribuire energia con la storia, l'Edison, però dell'Edison, con la storia dell'ecologia, ti diamo il 20%, noi siamo ecologici. Poi hanno sparato l'accisa finale, e quell'accisa c'è un comma per il prolungamento dell'accisa comunale, fregati. Ma sì, guarda, da quel punto di vista che sono dei ladri ci siamo perfettamente d'accordo. C'è chi si trova bene con un ladro, c'è chi si trova bene con l'altro ladro, sempre ladri sono. Perché comunque in Italia siamo quelli che in Europa stanno pagando più tasse in assoluto, perché paghiamo la tassa sulla tassa. E se ti dico che tasse ci sono, alcune, fanno davvero ridere. Io che lavoro e faccio un certo tipo di lavoro, per assurdo, per i negozianti, c'è la famosa tassa sull'ombra che si paga solamente in Italia. E cioè non potendoti far pagare il suolo pubblico perché una copertura come può essere la tenda di un negozio non poggia per terra, allora ti fanno pagare la tassa sull'ombra, che sono cose assurde, come vogliamo pagare del coperto nei ristoranti, cioè tu entri dentro e devi pagare il coperto, vabbè quello lì è sul privato, però non c'entra niente lo Stato, però ci inventiamo le tasse, fanno davvero ridere, guarda. Sì, ma te lo sto dicendo. Vedi che tu stesso adesso ti sei tirato una rastraiata nei piedi, anzi, veramente sei tirato una rata nei piedi. Perché? Perché se tu consideri che inventano le tasse, immaginati tu cosa inventa l'Edison, è che non lo vedi per ora. Ma perché ti pensi che l'Edison stia telefonando da casa in casa? Ritorniamo sempre allo stesso punto, c'era un motivo. Per riprendersi i clienti, l'hanno detto, perché dice abbiamo perso, siamo consapevoli che abbiamo e ok. Io per quella storia dell'accisa comunale ci ho fatto mezz'ora al telefono e ho detto che io sono un coglione, però dobbiamo vederci faccia a faccia, capito? E ci sto arrivando piano piano, li sto distruggendo puntino per puntino, perché oggi lo dico a te, domani lo dico a quell'altro, cioè la cattiva pubblicità è molto più potente di qualsiasi avvocato, di qualsiasi e di qualsiasi genere di altro tipo di provvedimento legale, non servirebbe a niente, la cattiva pubblicità, ecco, questo è il mio punto di forza, io li distruggo, perché sono delle persone che praticamente abusano e strabusano dell'utenza, e questo me l'hanno fatto parecchie volte, nonostante che li avessi avvisati, tanto, non sto sedendo l'idea. Nonostante che li avessi avvisati, ma comunque non è importanza, riprendila e poi un attimino mi assento che devo fare una cosa. KK, Giulio, riprendi tu un attimino, cosa ti sta preparando la tua 50? Ma qua non lo so, non te lo so dire, Anto, perché io sono nel piano superiore, lì è giù un'altra vernetta, dunque non so cosa sta preparando. No, ti volevo dire proprio il comodo, io ho visto che hai tolto fuori la tassa sull'ombra, eccetera, eccetera. Tu lo sapevi che questa è una legge che risale all'età della pietra, addirittura, che si pagava il bollo, la tassa per il metro da lavoro, cioè io avevo un metro per dovevo pagare, oltre che essere timbrato, dovevo essere timbrato anche, tra l'altro, riconosciuto dalle istituzioni, e si pagava anche la tassa. E questo non è che ci manca da tanti anni, e non so se è ancora in vigore, solo che nessuno la paga mai, perché ormai quella è una cosa dimenticata dal secolo scorso praticamente, ti puoi immaginare. Gli attassi che mancano qua, fanno molto, metteranno anche la tassa per respirare, c'è quello che respira di più che ha i polmoni più migliori e che respira di più, e allora quello pagherà di più. Ma guarda, se vuoi ti racconto una delle cose su cui lo Stato ruba di più. Tra l'altro c'è un conflitto di interessi unico che è quello della SIAE. Allora tu immaginati che la SIAE, sai che cos'è? Società Italiana Autori ed Editori. Morale, all'editore già ne arriva una miseria di quello che arriva allo Stato pagato dagli utenti, però tu immaginati che l'editore per stampare il disco già paga la SIAE, dopodiché se il disco viene acquistato da una discoteca deve pagare sempre la SIAE, una parte del disco paga la SIAE, chi entra in discoteca per ascoltare quel disco paga la SIAE e chiaramente all'emissione del biglietto anche il gestore della discoteca paga la SIAE. Quindi per ascoltare un disco che viene fatto, si paga 4 volte la tassa SIAE. Chiaramente per la giornata per metterlo in onda il disco, per farlo ascoltare alla gente, si paga sempre la SIAE. È una cosa vergognosa e guarda caso, siccome non è una società che ha un pacchetto di azionario privato, guarda caso quel pacchetto, la maggior parte di quel pacchetto azionario ce l'hanno i nostri deputati per un buon 90%, quindi c'è un conflitto di interessi devastante. Lo so, sì, perché poi la SIAE manda i diritti all'autore, manda, sì, lo so, e quelle le ha pagate, ogni tanto le paga anche mio fratello, perché lui canta, incide e paga queste cose qua, lo so. Tra l'altro anche un amico che ancora oggi va insieme al direttore, lui, a controllare le discoteche, e tante volte mi dice, io quando arrivo lì cosa vuoi che dica? Se sono da solo, dice, non faccio niente, non faccio nessun verbale, ma se sono col direttore purtroppo gli devo fare il verbale, ma tu devi vedere gente, dice, che piange perché fanno la multa a questi locali notturni dove si balla, eccetera. Un amico che Gianni di Doppio Lugia, lo conosce anche lui, che è roba di 30 anni che sta facendo questo lavoro, oltre al lavoro che ha fatto, che adesso è in pensione, per tanti anni che faceva il meccanico, faceva anche il servizio SIAE, faceva, dice, io la verità tante volte evito, e mi dico, no, non ci vengo, direttore, stavolta non mi sento bene, eccetera, proprio per evitare, dice, certe cose, dice, perché magari a me mi conoscono, poi tra l'altro, dice, ho anche paura, capace che un giorno scoprono che io faccio anche il meccanico, sanno dove ho l'officina, vengono per fitte e me la incendiano, sai, alle volte ci sono anche queste repliche, ci sono queste cose qua, e lui aveva paura, dice, ma se tu questo lavoro non lo vuoi fare, perché ci vai? Ci vado, dice, perché qualcosina mi guadagno, e allora, visto che a questo punto cosa vuoi fare? E vabbè, ci continua ad andare, infatti ancora oggi, adesso però l'officina l'ha chiusa, dunque è tranquillo, penso che adesso non è cambiato mentalità anche, capito? Vabbè, avanti, già hai capito di chi sto parlando? Ragazzi, lo giuro, ti stavo ascoltando sinceramente perché mi stava parlando mia moglie, verticale, non ho sentito. Riprendi, se vuoi ripetere il passaggio perché non ti ascoltano, dico la verità. Stavamo parlando della tassa SIAE, no? C'è quell'amico meccanico che tu conosci benissimo, quello che era vicino a me, no? E lui è roba di 30 anni che sta facendo il servizio SIAE, e a un certo momento aveva anche paura che prima o poi scoprissero che lui faceva meccanico, durante il giorno e la notte andava a fare servizio SIAE, dice un giorno che mi scoprono capace che qualcuno qui viene, quando ho fatto un verbale, viene e mi incendia l'officina, dice. Adesso purtroppo adesso non succederà più quello, perché l'officina ormai l'ha chiusa, dunque è tranquillo da quel punto di vista, capito? Sì, sì, ho capito che baffo. Con il baffo, quello con il baffo, sì. Ah, fa il servizio SIAE di nuovo. Ormai 30 anni che fa il servizio SIAE. Cioè, da adesso no. Adesso è in pensione, adesso rimarrà anche meglio, non lo so. Prima invece cosa faceva? Chiudeva l'officina, andava, si faceva subito la doccia e doveva andare a fare il servizio SIAE. Rientrava anche alle 4 o 5 del mattino, perché naturalmente le discoteche lavorano sino a un orario molto ma molto tardi. E allora lui andava e controllava. Però sinceramente, siccome è una persona troppo brava, soprattutto di cuore, tante volte ne faceva meno di fare verbali, capito già? Perché dicevo che per malasciamo di lavorare con questa gente. Purtroppo lui era in servizio e nel servizio lo dovevo fare. Allora, hai visto? Doppio lavoro. È sdoppiato. Eh sì, è proprio così. Avanti a tu. Non gli ho di nuovo il telefono sicuramente. Capito già? L'ha fatto, lo sta facendo sempre, ormai 30 anni e più, forse anche di più di 30, che fa quel servizio lì. Lui va sempre, di solito va sempre col direttore, capito? Diciamo che va molto d'accordo col direttore e allora fa quel servizio. Tante volte si copre dietro il direttore, perché lui tante volte dice il direttore, ma lasciamo stare, io dico, lei che sono dei poveretti, questi cosa guadagnano, no, dice facciamo il verbale, perché la legge bisogna rispettarla, certo che bisogna rispettarla. Però per dirti no, come stanno le cose, ci vuole anche carattere per fare certi servizi, è già. E allora sai che anche nelle musiche, quando metti musica devi pagare la SIAE, se no ti multa. Lo so, quando mio fratello va a fare le serate, addirittura prima di iniziare deve compilare un foglio per dire cos'è che propone stanotte. Propongo tutte queste canzoni qua, no? Queste canzoni hanno, perché se vengono, quelli della SIAE, che è successo tante volte, è successo, che vanno nei locali, trovano i gruppi che stanno cantando, compresi, eccetera, e se ti sentono cantando una canzone che non è in lista, sono problemi, guarda, sono problemi, soprattutto per il coso, come si chiama, per il gestore del locale. E allora, per non rischiare, per dire, oggi facciamo per dire 30 pizzi. 30 pezzi sono tutti questi titoli qua, di queste canzoni, perché poi vanno i diritti, la SIAE naturalmente può pagare le tasse, eccetera, però poi mandare i diritti a chi di dovere, no? a chi è il proprietario delle canzoni e della musica e tutte queste cose qua, capito? Sì, ma stanno facendo anche i giri dei negozi, supermercati, dove c'è musica bisogna pagare sempre la SIAE, anche nelle feste private. Lo sai che una volta alla festa privata dei ragazzi si sono presentati e gli hanno messo la multa? Lo credo, certo, ma anche nelle feste di beneficenza, eccetera. Adesso io tante volte, tanto per fare un esempio, vanno nei locali, fanno per cercare di raccogliere un piccolo contributo magari per rivolgerlo a un ente magari dei ragazzi malati o eccetera eccetera, lì lo Stato vuole la tassa, non è che la passediscano, no, assolutamente, guarda, anche quelle, per quelle cose lì si paga sempre, e magari loro hanno fatto la manifestazione gratis, hanno fatto la manifestazione gratis senza soldi, però la tassa deve pagare sempre, capito? Perché hai preso magari i biglietti in beneficenza, hai dato che so io o 5 euro, dare in caso poi devi togliere da parte per lo Stato. Beh certo, funziona così purtroppo, dico purtroppo perché in certi casi, tipo una festa dei ragazzi che fanno in cantina una festa o in una sala privata o cose, non ci sarebbe il tanto di mettere leggere la tassa, boh, vabbè, comunque, si legge e legge, cosa vogliamo fare? Antonio Robbe. Beh già, io te devo lasciare, dai, che senta mia moglie a chiamarmi per scendere giù a cenare, dai. Va bene, perché avevo la porta chiusa e dunque non ho potuto sentire, sta fatto le scale per salire su, per avvisarmi. Ok, ciao già, ci salutiamo in questo momento, perché intanto io non riprenderò stanotte, sicuramente mi guarderò la televisione, eccetera. Alle prossime, dai, a domani eventualmente. Grazie per la chiacchierata, ciao ciao. Saluti in famiglia, dai. Saluti a Gianni Giaguaro e a Antonio Grode, anche se mi state ascoltando. Riprendi già, ascolta prima di dire e chiudo, vai. Ehi, là, ciao Giulio, buona tarda, che dopo fra poco andrò anche io, dai. Antonio Grode, ci sei o no? Tardi. Beh, se ci siete, sto facendo un cuore più anch'io, dai, ma no, anche io a cena.